Gli speciali di GR24. Un cordiale saluto da Armando Turno e un augurio. Questa volta abbiamo come ospite un musicista, un pianista, un personaggio del nostro tempo della musica, Ludovico Einaudi, che è un compositore, un pianista e anche un figlio d'arte, perché è il figlio di Giulio Einaudi, nipote di Luigi Einaudi. Dico questo per la gloria, in fondo, che ha rappresentato per la cultura italiana. Però la sua carriera di musicista è qualcosa di diverso dall'editoria. Comincia con il jazz rock, poi lentamente entra così nell'alta musica. È impossibile fare l'elenco di tutti i teatri. Io dico semplicemente a Ludovico Einaudi, buon Natale. Buon Natale a tutti. Bene, è una presentazione un po' insolita, però è un modo diverso per fare gli auguri, invitando un musicista contemporaneo, un interprete contemporaneo, e ovviamente averlo con noi questa volta. Io le volevo chiedere, quando lei ha pensato di diventare musicista? Ho cominciato abbastanza presto a sentire la musica come un'esigenza. Io avevo insieme ai libri in casa, avevo una madre che suonava il pianoforte, che una madre che c'è tuttora, e comunque la presenza di questo pianoforte era costante e quotidiana, perché forse era diciamo una sorgente di emozioni, di musiche classiche, di canzoni popolari che risuonavano sempre nelle stanze della mia casa natale, diciamo. E quindi con gli anni poi il pianoforte è sempre stato come un gioco da piccolo, poi ho cominciato a studiarlo, però poi la musica è diventata come una presenza un po' imprescindibile. Non riuscivo comunque mai ad allontanarmi, anche se cercavo di andare da qualche altra parte, poi ritornavo lì, e quindi non sapevo bene cosa avrei potuto farne, perché poi è difficile ipotizzare che cosa uno diventa, cioè uno dei sogni. Forse il sogno è sempre stato quello creativo nei confronti della musica, quello certo. di fare qualcosa. Però che... lei sta lasciando una forte traccia nella musica contemporanea. Io pensavo di fare un elenco delle sue opere, mi hanno dato 5 pagine di opere, chiaramente quindi non le posso leggere perché altrimenti sarebbe un terribile elenco di Natale, lei capirà. Certo. E quindi ai nostri ascoltatori dico, abbiamo Ludovico Einaudi e facciamo gli auguri di Natale con Ludovico Einaudi, ma non posso dire tutte le sue opere. Senta, invece un'opera che lei vuol raccomandare agli ascoltatori in questo momento natalizio, quale può essere? Ma io forse un'opera in generale. Sì, un'opera sua che lei vuole raccomandare, mia. Cioè come regalo di Natale, sì. La consiglia agli ascoltatori. Io suggerirei 2 cose mie recenti. Uno è l'ultimo lavoro che ho pubblicato, si chiama Nightbook, è un, sì. È una specie di libro della notte musicale. Quindi, libro della notte, sì. Perfetto. E poi c'è Divenire, che è l'album precedente, una composizione che ha uno slancio verso il futuro, quello lo vedo per un augurio del 2010. Ecco, perché poi, non so, Dormi amore, eccetera, così sono bellissimi titoli, perché tra l'altro sono anche, diciamo così, dei titoli non ansiosi, ecco, quindi è stato molto bello leggere tutta la sua... l'elenco delle sue opere, la sua bibliografia, chiamiamola così. Io devo dirle che, essendo questo un momento natalizio importante, deve anche confessarci un Natale che si ricorda, dove magari ha suonato o non ha suonato, però magari ha mangiato una quantità incredibile di panettone. Un ricordo suo? Beh, sì, diciamo che ho tanti ricordi e uno in particolare, quando penso a Natale penso alla mia casa in campagna nelle Langhe, una casa... dove si produceva il dolcetto, dove si produce ancora il dolcetto, una casa immersa nelle colline e attorniata dalla neve a certo. Natale, poi con un buon tartufo e una bagna cauda. Adesso va a finire che qualcuno ci telefona perché sì. Desidera appunto accedere a questi. Ecco, e quindi il Natale era un po' questo. Senta, è il primo Natale in musica, invece magari il giorno in cui ha lavorato, il giorno in cui ha fatto qualcosa? Io non ho mai lavorato il giorno di Natale. Quindi è la prima volta che la facciamo lavorare, devo esatto. dire, merito di Radio 24. Sì, sì. Senta, possiamo far ascoltare un suo brano? Lei ce ne ha portati diversi, però ne abbiamo scelti due, e il primo è Indaco. Indaco, che è appunto il colore della notte, e quindi... Ecco, quando risale questo brano? Questo brano risale a 2 anni fa, e l'ho registrato poi quest'anno, fa parte di Nightbook, e... Era un brano col pianoforte e il quartetto d'archi e mi sembra giusto, l'ho scelto proprio perché ha questo colore della notte di Natale. Ha un po' di natalizio, ha un che di natalizio. Adesso allora ascoltiamo Indaco di Ludovico Einaudi e poi ovviamente riprenderemo a parlare con lui. Thank you. Era Indaco di Lodovico Einaudi e con Lodovico Einaudi stiamo percorrendo questo spazio, questo speciale, questo momento un po' natalizio, un po' tra le feste. Ecco, forse questo brano Einaudi dimostra che la musica contemporanea è viva e ha ancora alcune suggestioni, non come taluni dicono che sia morta e che ormai la musica così amano fissarla entro una certa data. Sì, soprattutto un po' di tempo fa si diceva che la musica contemporanea era morta. In realtà la musica è sempre stata viva, forse una certa musica è morta, quella che forse si è arroccata troppo su delle posizioni troppo radicali e chiuse verso il resto del mondo. Parallelamente a quella musica c'è stata una grandissima esplosione molto vivace nella musica popolare in tutto il mondo, e quando alcuni musicisti si sono diciamo resi conto che quella strada diciamo troppo concettuale era una strada era un vicolo chiuso, e si sono riaperti diciamo all'aria della musica del mondo, della musica popolare, così come del resto hanno fatto grandi musicisti nel passato. Nella storia della musica, la musica è ritornato a vivere e quindi a germogliare, quindi sono nati tanti nuovi fiori, tante nuove piante. Certo, io la sto seguendo, diciamo così, con la pigrizia che molte volte contraddistingue il mio lavoro, da quando lei nel 92 ha fatto i 16 pezzi d'arpa, perché me li ha fatti scoprire una mia amica arpista. Non so confessarle se era per fare il filo all'arpista o per amore della sua musica, però essendo Natale non posso dire bugie, caro Einaudi. Però devo dire che mi colpirono quei 16 pezzi d'arpa e poi mi resi conto che lei aveva già fatto molte cose negli anni 80, c'era già molto lavoro. Mi sono sempre chiesto qual è il compositore del Novecento, ovviamente escluso lei, che potrebbe chiamare classico, cioè quel compositore al quale consegnerebbe il suo cuore. Che potrei chiamare classico... Nel Novecento, sì, e non andiamo nell'Ottocento perché altrimenti sì, finiamo in un pasticcio. Beh, nel Novecento ci sono tanti compositori che potrei nominare. Mi dica il primo. Bartok, che, per esempio. Bartok ce l'ha nel suo cuore, quello sì, non lo mettiamo in dubbio. Un altro? Un altro, sempre di quel periodo, Stravinsky, ma io poi metterei dentro anche Berio, che è stato mio maestro, poi metterei dentro anche Philip Glass. Certo, Berio, devo dire, è stata una persona stupenda. Io ho passato delle serate con lui per Utis, per altre cose, e devo dire che sapeva sempre stupire. Poi aveva queste ire bellissime, insomma, che non si addicono a notte di Natale, ma me le ricordo con infinito affetto. E poi aveva questo grande amore anche per la musica popolare, che certo, era un amore che condividevamo, per cui si... In macchina, mi ricordo, ascoltavamo insieme i pezzi dei Beatles, li commentavamo. A parte che io sono convinto che la musica classica non esista, ma esiste solo una musica popolare che poi diventa classica. Del resto, certo, le messe più belle nascono dalle canzoni dei soldati, come sì, si insegna nel 500. Ma al di là di questo, senta, lei mi ha portato un altro brano, perché ne ha portati parecchi, ma poi già la prenotiamo per una puntata che faremo durante l'anno, quindi gli eventuali ascoltatori dovrebbero aspettare a scriverci delle lettere appunto quando lei arriverà e aprirà ancora di più il suo cuore. Ci ha portato anche Reverie. Sì, ecco, questa quando è nata? Questa è nata sempre circa 2 anni fa, quindi parallelamente a Indaco, ed è un altro brano che ho scelto perché per questa occasione natalizia. Anche una strumentazione, oltre al pianoforte c'è anche un Glockenspiel iniziale che dà questo colore natalizio, ma e ha questa luce notturna, però è come se dentro la notte ci fosse la luce, vedo come la luce della luna riflessa sulla neve, un po' come colore. Del resto il 25 dicembre è la festa del sole. Aureliano stabilì il Dies Natalis Solis Invicti, poi noi l'abbiamo trasformato nel Natale di Gesù bambino, di Gesù insomma in genere, quindi c'è un po' di luce nel Natale comunque lo si giri, E adesso lo cerchiamo però in Reverie. In Reverie. Eccolo. Era Reverie di Ludovico Einaudi, questo brano con la luce, con la dolcezza del Natale di questi giorni. Einaudi, sa che il tempo è volato con lei, ma lei non si pone mai dei problemi di tempo così terribili? Io no, vedo che nel mondo i problemi di tempo, soprattutto nel mondo occidentale, il tempo è diventato una cosa Atroce. Atroce, sì. E quindi difatti per quello mi piace andare in posti dove il tempo è più dilatato. E certo, una volta Stephen Hawking mi disse che è stato il tempo a inventare Dio per complicare le cose. Non lo so se sia vero, però è molto bella questa affermazione. Io penso però che abbia inventato la musica il tempo, ne è convinto? Sì, assolutamente. No, poi difatti la musica fa entrare in un'altra dimensione del tempo e lo dilata a volte anche. E lo domina. E lo domina, sì. Senta, non mi resta che fare gli auguri di buon Natale e buon anno, ovviamente lo faccio a lei. Ovviamente lei adesso ci ha promesso che ritorna. Ritorno, se mi volete a febbraio. No, la vogliamo, la opzioniamo, ne chiamo testimonianza agli ascoltatori. In queste notti del Natale bisogna sempre dire la verità, ma è le bugie in audio, altrimenti saremmo così un po' anche fidifraghi nei confronti della lieta novella. E cari ascoltatori, abbiamo avuto come ospite Ludovico Einaudi, pianista, compositore, uomo delle mille esperienze, dei mille teatri. Non abbiamo fatto l'elenco, ma lo faremo poi magari brevemente nella prossima puntata che avremo con lui di Musica Maestro. Per ora abbiate i nostri auguri di buon Natale e buon anno. A risentirci con Musica Maestro.